Mi ricordo di te. Leggo nella Bibbia, in Filemone, capitolo 1, versetti 4 e 5. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Le nostre preghiere sono spesso molto egoistiche. Siamo ripiegati su noi stessi, sui nostri problemi, su ciò di cui abbiamo bisogno. A volte preghiamo come se tutto girasse intorno a noi e dipendesse da noi, come se noi fossimo l'ombelico dell'universo. Molte volte mi sono ritrovato a pregare solo per me stesso, dimenticandomi di tutto il resto. Ma con il passare del tempo mi sono accorto che il Signore ha cominciato ad aprire sempre di più i miei occhi sugli altri, sui loro bisogni, imparando anche a ringraziare e ad intercedere per loro. Credo che un credente, man mano che matura, dovrebbe sperimentare questo cambiamento. La sua attenzione dovrebbe spostarsi sempre di più verso coloro che lo circondano e sempre meno verso se stesso. Un aspetto importante della preghiera, spesso trascurato, è proprio il ringraziamento verso il Signore per le cose positive, per ciò che gli altri stanno facendo di buono. Siamo a volte così concentrati su noi stessi da non accorgerci di come Dio sta operando intorno a noi anche attraverso gli altri. Paolo gioiva perché sentiva parlare dell'amore e della fede di Filemone. Filemone mostrava la sua fede nel modo in cui agiva con amore nel proprio servizio. Paolo quindi manifestava quella gioia ringraziando Dio continuamente per Filemone e per la sua opera. Ultimamente ho sperimentato diverse volte l'incoraggiamento che proviene nel sentire qualcuno che ti dice «Mi ricordo di te e di ciò che hai fatto». Quando Filemone lesse le parole di Paolo, credo che anche lui fu molto incoraggiato da questi pensieri. Molte persone magari ci hanno causato dei problemi ed è facile che il nostro pensiero vada a loro, chiedendo al Signore che ci aiuti a risolvere tali problemi. Insomma, ci ricordiamo degli altri quando ci hanno fatto del male. Ma quante volte mi sono ricordato degli altri per le cose belle che mi hanno dato e per la loro fedeltà? Anche se devo ancora migliorare molto in questo, sto imparando a gioire e ringraziare il Signore per le persone che ho conosciuto, per la loro crescita, per la loro fede, per il bene che hanno fatto a me o ad altri. Sto imparando a ricordarmi degli altri anche per le cose buone. Mi sono reso conto che la prospettiva cambia subito. Ci sono molti motivi e molte persone per cui ringraziare il Signore. Molti di più di quanto avrei mai potuto immaginare.